chiami tutti i fotografi della Ferrari, sta. Non sbagliare la macchina adesso, mi già, e ti prende la Ferrari. E poi ve la un vicino, boh, cosa se ne fate? E vabbè, e magari un vicino che va un po' così là, e ha voluto prendersi una soddisfazione. Alla gala. Sarà sicuramente così. Quelle sono macchine che trottano, eh. Sì, una foglia, però. Sicuramente così. Luca, sì sì. Buonasera a tutti comunque. Hai aggiustato la radio? Pompo. È aggiustata, è aggiustata. Pompo, ne ho zappati. Perché sei vicino a casa? No, sono a quadrato. E lo seguite da casa, ho guardato. Ha voglia. Cos'è questo rumore sottofondo che si sente? Da vento dell'alimentatore. Quello dei cinesi. Sembra una sega al natolo. Adesso lo sentivi meno? Ehi, adesso va bene. Giulio, ripetitela. Appunto, quel rumore di cosa? Di Antonello. Sembrava una sega al natolo, sembrava. Una sega elettrica. Esagerato. Meno rumore le macchine mie di falegnameria, meno rumore di quella aveva. Perché stai usando l'alimentatore dei cinesi, capito? Per quello, Ehi, vabbè, dai. Avanti, Natalì. È arrivata la moglie, forse stanno parlando, boh. Ok. Hai sentito ieri cosa è successo lì davanti a casa di Natalino, già? Una macchina che stava transitando lì, in quella strada, a un certo momento aveva il vetro della macchina, dello sportello aperto, gli è entrato un piccione, come ha visto questa cosa, si è spaventato l'autista e ha fatto un frontale con l'altra macchina che stava in senso inverso. E si sono fatti male. Ma forse una donna, l'iceberg come è esploso, perché è esploso anche l'iceberg, ha avuto una piccola frustatina in faccia. L'iceberg. L'iceberg, come si chiama? Non si chiama così. L'iceberg si chiama, non l'iceberg. L'iceberg è quello col ghiaccio. Gianni, mi hai sentito? Ehi, ho detto l'iceberg è la verdura. Si chiama airbag. Airbag, sì, giusto, airbag, hai ragione. Appunto, stavo chiedendo come si chiamasse, cosa ne so. E vabbè, comunque è interessante che non ci siamo fatti molto male, dai. Cazzo, una cosa allucinante, però. Ma per dire, il caso ha voluto che questo piccione gli è entrato nella macchina, quello si è spaventato e giustamente ha preso il controllo dell'auto e ha fatto un frontale, te lo immagini? Cioè, non te ne immagineresti mai certe cose. Purtroppo sono anche questi casi della vita, e cosa ci vuoi fare? A me una volta un barbagianni, non so cosa cacchio era, si è sbattuto allo specchietto e me l'ha spaccato. Te lo credo, capita. Secondo la velocità che era anche la macchina, lo specchietto ci vuole poco a spaccarlo, è sottilissimo. Ma l'ha proprio buttato in terra, capito? Cioè, non lo specchietto, proprio quel cofanetto che c'è dietro, non lo specchietto. Quello lì l'ha buttato in terra e me l'ha spaccato. Figurati, già lo credo. Perché a un certo momento non è tanto magari il peso dell'incontro che ha avuto con l'animale, però è la velocità, credo che il danno è quello. Certo. Però intanto, siccome erano di quei tappi verniciati, ho pagato un sacco di soldi. Figurati. E vabbè, purtroppo possono succedere anche queste cose. Avanti, Natalia. Io sto facendo quella roba là, dai, riprendete voi. Distrutte le macchine, completamente distrutte, insomma. E ci sono fatti male, Natalia. E quella signora si è fatta male, e invece l'altro, quello del piccione, non si è fatto nulla, era solo le gambe, ci aveva graffiate. È allucinante. Vai, immaginati una cosa del genere, se sei a alta velocità con la piccia. Vai, tu immaginati se fosse stato magari in una strada extra umana, Gianni. Sarebbe scappato il morto, sarebbe scappato. Perché chiaramente in una strada extra urbana sicuramente. sicuramente ci sarebbe stata più velocità sia da una parte che dall'altra delle due macchine. Adesso meno male erano in città, si sa, la velocità poi in quella strada non è così tanta, però quando due macchine si incontrano uno contro l'altra, di danno se ne fanno, a voglia se ne fa. Vabbè, purtroppo non te lo immagini nemmeno una cosa del genere, e cosa vai a fare? Magari a me non mi avrebbe spaventato più di tanto, essendo un piccione, ma secondo chi truffi si spaventa. Ma se ti sono contenti che era pure un trubetti, che ci cura appunto, ma cosa ti racconta a questa signora? Sopra il Ringhieri ti racconta, che c'è il Ringhieri di Borgo di Pisò? Ha piegato il paletto della ringhiera, mi sta dicendo mia moglie. Allucinante. Vabbè, purtroppo, quando c'è il finestrino aperto a me anche il buvone già mi è entrato. L'altra volta se pensavo che fosse una mosca, sentivo, vabbè, si rabbia le luci. Mi girano di chi si buvoni grossi, Natali, mamma mia, allora mi sono fermato. E hai fatto bene già. Cazzo, ogni buffone di chi si mani, se ti pugni di chi si ti base di... ti fanno una bella bozza se ti pugni. E a me una volta mi sei... tu mai mi cudo a terra come un coso. Mi sei... ero con la Vespa verso i punti, lì stavo andando, sulla strada e porto la porta. E non mi si cudo il buffone a capo. Un durori, a giumai cazzo... caggio come te un pirla, ho tenuto la moto, guarda, non so come ho fatto. Perché sembrano pietre quando ti si sbatto, a me una volta in moto mi si è sbattuta la pancia e mi sono gubbiciato in due dal dolore, mi ha fatto una bella bozza e mi ha fatto, a me mi si è tutto gonfiato, e vabbè, sono duri, se tu vai a schiacciare non ci riesci perché sono tutti chi davanti. Una volta io avevo visto uno proprio all'altezza di Ottavo, parlo di tanti anni fa, un giovanotto l'aveva preso in faccia, e aspetta, vedere questo, piangendo come un bambino dal dolore, era con una di quelle moto pesanti tra l'altro, forse stava anche camminando un pochino, e uno di questi volatili così l'ha colpito in faccia, capita, meno male che non l'ha fatto cadere, ma deve essere dolorissimo sicuramente. Giulio? Sì, avanti. Sì, Gianfranco. Ascolta, ti chiamo tra poco, anche Gianni magari, che devo provare quell'affare che l'ho saldato il PL, l'ho dovuto risaldare anche il PL, qua lì. Quindi ti chiamo dal terrazzo, ti è presente che avrò un segnale proprio basso, basso, basso. Va bene, d'accordo. Adesso sì, in questo momento sì, quasi 9,5. Ma è un altro apparato, l'altro è già pronto. Salgo su, sul tetto e ti chiamo. Va bene, d'accordo, siamo qua. Avanti, Natali. E dai, sto cenando, dai, riprendete voi, già vi ascolto. Ehi, ehi, devo andare, dai. Fra una ventina di minuti, dai. D'accordo, già. Allora, se devi andare, metti in moto, dai. Facci sentire il tuo turbo. Ancora è presto, ancora è presto, ancora mi ho ridato 10 minuti. Che sono andato a lavarmi la macchina giù, perché l'avevo appena lavata. La sera che stavate parlando di lavare le macchine, io l'avevo appena lavata. Mi ha fatto quella pioggia di nuovo, me l'ha fatta tutta beffa. E io lo stesso, l'avevo lavata il giorno prima. L'avevo lavata, l'indomani l'ho portata alla revisione. Beh, durante la notte di nuovo quella pioggia tutta piena di terriccio e me l'ha sporcata di nuovo. E cosa ci vuoi fare? D'altronde così. Va infatti. Casino, eh. Oh, yeah. Tutto chiuso il quadrato. È un casino giù, e questa pioggia qua non si sa, cazzo, 7 euro oggi, 7 euro domani, altri 10 l'altro giorno perché le ho messo il teflon, per ripararla un po' le ho messo il teflon sopra. E questi che sono? Sì, ma è così già, purtroppo, quando c'è quel vento così che solleva tutte queste polveri, li trascina per vari chilometri e li sparge un po' sulla testa di tutti, purtroppo è così. Va bene, dai, riprendi. Questa settimana l'ho lavata già 4 volte la macchina, non ti dico, figuriamoci. Ma impunità, dovrebbero fare per forza. Purtroppo sembrano prese in giro da parte del tempo, perché tu la punisci e è quella che fa il dispetto, poi domani che te la sposta, o addirittura la sera stessa. Trecker. Avanti. Gianni, come mi senti di segnale? Io, Santiago, non te ne do la radio 1, proprio basso basso. Basso quanto? Sì, è bassissimo. Io ti sento uno di segnale. Proprio a malapena ti ascolto perché non c'è corrente. Giulio, tu mi senti? Giulio, lo senti a Gianfranco? No, per niente, niente. Sono con un antennino un po' particolare, dai. Però c'ho stazionario, un attimino che siamo accordo, sono accordato. Sento che sta parlando, però non capisco quello che dice. Ha detto che c'è un antenino particolare, che c'è stazionale, che l'accorda adesso. Io sentivo che stava parlando, però non si capiva una sola sillaba, niente, di quello che diceva. Sentivo un leggero mormorio, ma niente di più. Ecco, vedo. Aspetta che non adesso... guarda adesso. Sempre uguale. Mi fa... Ah, che pazienza ci vuole, che fatto. Sempre Santiago uno, sì. Ma uno è volersi bene, si muove appena appena. Sì, perché qua dai minimo possibile. In FM invece è tutto un altro pianeta, devi dare potenza. Ma in FM vale. Prova in FM, aiuto. Giulio, bene FM. Io non lo sento per niente, Gianfranco, ripeto, sento che sta parlando un mormorio, ma non capisco una sola sillaba di quello che dici. Tasse in FM, che hai detto che lì va bene. Va bene, facciamo così. Adesso mi dovresti sentire così. Ti sentivo anche prima, eri quasi 9, basso di radio, però ti riusciva a tirar fuori. Adesso prova. Adesso perché sole, però i vatti sono sempre qui. In quel vatti, aspetta che li metto un pochino di più. Ecco qua. Come solitamente faccio, 10 watt, avanti. Ti sentivo, senza processore eri quasi 9, col processore 9,5 tendente a 9,10, adesso sei 9 più 20. 10 watt, 10 giusti giusti, altri, aspetta Sì, forse appena scarsi, forse sono 9 anziché 10, vabbè. Io la freccetta l'ho fatta salire sul numero 10, per cui... Sì, perché, ripeto, in FM io devo togliere il processore e poi mi hanno consigliato anche di abbassare il watt perché non è proprio il caso, perché se no me ne dà a tutta la birra, insomma, già mi hai capito. Sì, poi spara automaticamente. Vediamo se Franco, avanti a te Franco. Ecco, c'è la riprendo io. Sì, in definitiva ce l'ho corte a 10, modulati magari sale a 50. Infatti, forse anche 100, è qualcosina di più, ma comunque va bene così. No, appunto ho voluto fare come mi ha consigliato Claudio, che lui è espertissimo di questa radio, che poi tra l'altro alcuni anni fa era anche sua, dopo i vari passaggi, eccetera eccetera, e dunque faccio così anche perché non c'è motivo di sforzarla, che per quale motivo la devo forzare, visto è considerato che mi sentono, va bene così. Infatti prima era 5 watt scarsi anche e senza processore, è quello del sistema, e il microfono sempre a 50 ohm a 30-40 cm dalla bocca, e va bene così. Sto parlando sempre di quando ero in FM. Avanti, Robè. Sì. Franco, tu dove ti trovi adesso? Franco sta arrivando a 9 più 30 qua in AM. Avanti, Franco. Nulla. Di nuovo vediamo se Gianfranco si è avvicinato, se no li prendi tu giù. Siete in AM o FM? Adesso siamo in AM. E il tuo segnale è quasi 9 più 30, Gianfranco. Vabbè. Nonostante sia anche questo a bassa potenza. Giulio, di là ti sentivo... c'ha due amplificatori, stavo dicendo a Roberto, di ricezione. Al 2 l'ho messo solo a 1 perché eri già S7, quindi figurati, sentivo sotto anche gli stranieri, non so se voi li sentivate, ma c'erano, con antenna portatile sempre. Sì, Giafra, no, qui no, qui arrivavi massimo Santiago 2, arrivavi e dunque no, sentivo solo che stavi parlando ed era solo un bisbiglio, ma assolutamente incomprensibile per quello che dicevi, per cui non capivo niente di niente. Pensa che adesso mi stai arrivando, in questo momento mi stai arrivando 9 più 2, figurati, da Roberto 9 più 30 quasi, qui 9 più 2, e la nostra posizione non è confortevole l'uno con l'altro, per cui va bene lo stesso, eh. Riprendi. Sì, poi dipende anche dagli apparati, questi qua sono molto molto molto sensibili, ma la cosa più bella che hanno è che ti tolgono totalmente il rumore di sotto, perché lo discriminano, capito? Non sono i classici apparati subiti, sono una cosa veramente che ti rinnova il gusto di ascoltare. Beh, certo che sì, appunto, vabbè, comunque, però non ho fatto nessun adeguamento, tutto, io ho solo schiacciato il tasto FM, vi sentivo tutti perfettamente, 27.075.00, perlomeno quelli che sentivo, a te no, Giafra, chiaramente, come ti ho detto, è il bassissimo e non capivo quello che dicevi, però anche Natalino, Roberto, Franco, lo stesso, tutti centratissimi al 100%, non c'era problema. Avanti, vabbè. Sì, diciamo in FM è abbastanza larga come coso, per cui anche se sei 27.076.77 riesci a sentirlo bene, è molto larga come larghezza di banda, magari in banda laterale ti sfrutti appena di un chilo e se non capisci più niente, con certi apparati magari col baracchino riesci a sentirlo, con apparati più selettivi, più stretti e diciamo di qualità superiore basta un chilo e non riesci a capire più quello che sta dicendo. Ok, di nuovo a te Gianfra. Infatti questo per sicurezza ne ha tre di filtri e tutti e tre sono programmabili. Tu pensa che se io stringo molto riesco praticamente a togliere la voce, cioè diventa talmente stretto che la voce scompare quasi. Ormai le radio si sono evolute, prima erano tutti filtri di un certo livello, adesso col digitale ti puliscono tutto, in soppressione di disturbi, eccetera, QRM, ti tirano tutto nel perfetto. Il problema è che se si guardano non c'è nessuno in grado di pararle, perlomeno qua in Italia che non ce ne sia nessuno perché sono troppo... dentro è un coso praticamente, un affare piatto e basta, c'è una piastra e boh. Ma quelle sono le tecnologie nuove, tutto fanno dentro all'interno dei processori, un computer fa tutto lì, senza bisogno di componentistica superficiale. Adesso sento tanto di quello, sotto si sente un po' di tutto, gente parlare, stranieri. Sento una ventolina di sottofondo però, già. Sì, siccome c'è molto caldo, l'apparecchio è dentro un mobile, questo è incastrato, quindi in trasmissione io che si accenda, guarda, ci sono 29 gradi, quindi neanche ragione. Io in questa stanza è chiusa, diciamo, c'è un sacco di roba dentro e c'ho dato un altro locale che trasmette il calore, per cui mi ho messo, non dico il ventilatore, quel rinfrescatore, il ventilatore non farebbe niente, qua c'è un rinfrescatore, nell'altra stanza c'ho l'aria condizionata, dove vado a dormire, se non l'attacco, se non mi sciolgo, ma un po' mi sono salvando con questo rinfrescatore che ci metti l'acqua, c'ha 11 litri di acqua, è tipo... come forma tipo quei pinguino o cose del genere, quelli che, diciamo che hanno il tubo eccetera, però qua si mette solo l'acqua e qualcosina ti abbassa un po' il tasso di umidità e ti dà un refrigerio, dai, non dico che ti dà sollievo o cosa, ma un pochettino meglio rispetto a un classico ventilatore là. Di nuovo a te Giulio. Ok, beh certo che sì, vabbè, sta facendo caldo, è chiaro, poi quando comincia la palica a lavorare per ore. Quanto ci siamo in frequenza adesso, Gioffa? Un paio d'ore, buoni. È chiaro che col passare dei minuti e delle ore l'apparecchio scalda e anche quello contribuisce a scaldare la stanza. Va bene così, dai, non c'è problema. No, io quando di tanto in tanto ho un'altra ventolina ausiliare, no? E la metto sulla parte radiante della radio, così, ma non perché. che ci voglia, così, per il gusto di fare, di operare anch'io davanti alla radio, e allora ogni tanto attacco, magari ogni tanto potete sentire anche il rumore della ventolina, oltre a quella dell'alimentatore, che quella si sa, è nata così, con la ventolina del raffreddamento, l'alimentatore switching, e va bene lo stesso. Avanti, Giofra. Sì, tu figurati che stamani, Giulio, infatti ho anche chiamato sperando che magari eri in radio per vedere se mi ascoltavi dal mare, dato che sicuramente sul mare vai meglio perché sei rivolto verso il mare. Ho fatto un paio di chiamate qua, ma non c'è nessuno. Mi sono spostato un po' più su e c'era questo dal Portogallo che arrivava, che era una cosa che era solo da vedere, guarda, stava parlando con un italiano che sentivo anche lui, però molto più basso. E sono rimasto a bocca aperta quando sono arrivato con la radio alle spalle, alla macchina, l'ho messa dentro il cofano e questo qua si sentiva, con l'antenna piegata, ho detto, e che cavolo! Immagini come capita. Quando c'è propagazione, la propagazione è molto importante. Quando per sentire le radio da fuori. No, ma io stamattina per un po' c'ero, io e Natalino, per un po' abbiamo parlato, poi ci siamo spostati nell'altro canale, ci siamo spostati e abbiamo continuato lì, tutto, niente di più. Io sono rimasto un'altra decina di minuti l'ascolto, ma non avevo sentito nessuno e allora poi ho spento e sono sceso giù. Bisogna, evidentemente non erano compatibili i momenti, o già fa, evidentemente era un'altra ora che mi ha chiamato, ma io non c'ero, e tantomeno Natalino. Va bene, avanti, va bene. Un interrogativo a Gianfranco, ma è una radio spalleggiabile o un coso, un portatile? È una radio particolare, totalmente digitale, touch screen, quindi tu la tocchi e imposti le frequenze, trasmette ovviamente in tutti i modi, compreso per l'appunto voce digitale, e anche in telex in CV in maniera automatica. C'ha il Bluetooth, il Wi-Fi, il Click and Track, il GPS che è formidabile, funziona anche dentro casa senza particolari accorgimenti. Ed è una cosa molto molto piccola. Io ho dovuto progettare, infatti l'ho fatto vedere anche a Claudio, una borsa apposita, perché la sua è esageratamente costosa. Ho dovuto fare i corsi d'antenna, poi modificare delle antenne militari che avevo per adattarle ai sistemi, diciamo, ai nostri famigerati PL e quelle cosacce lì, e quindi c'è un'antenna a nastro, in poche parole quelle che si vedono nei film, ed è un apparecchio che non scalda niente praticamente. C'è addirittura una sua batteria interna nel caso ti manchi l'alimentazione, che dura un paio d'ore. E in più io ci ho messo una batteria al piombo che pesa un raggio, di quelle piccoline, però da moto, non siamo da moto, anzi un parati furto da 10 ampere, con quella dura, infatti volendo c'è anche un booster che aumenta la potenza anche in AM fino a 30-40 watt. Però non lo utilizzo mai, tanto non è mai necessario. E diciamo quella generazione di quell'azzurro famoso, di quel 950 azzurro, di quella generazione di tipologia. Buonasera Antonio, ben arrivato, sicuramente adesso andrai a mangiare e ce lo ricordi anche a noi di andare a mangiare. Sì Roberto, di quella razza, c'è anche il microtelefono volendo e tutte quelle cose lì, quindi e di quelli, dai, avanti Antonio. Cappa, adesso scendo giù che la magna, ok, ci sentiamo dopo se coincide. Ehi, ciao Antonio, ben sentito, vai Giulio. Ok, ciao Antonio, ben arrivato. buona cena, dai, visto che stai andando a cenare. Sì, beh certo. E come grandezza è questo apparecchio che hai descritto, Gianfra? A recicla, così ad occhio, com'è? 20-30 centimetri, come con tutto quello che hai detto e che si può fare, non mi sembra che sia poi troppo compatto. Invece non è così. Allora, fatti un paragone con qualcosa, mi viene un po' male. Ecco, ce l'hai, è un po' più piccolo di un laterizio. Come spessore ci siamo, ma ce ne prendete i laterizi russi. La grandezza più o meno è quella. C'ha un piccolo altoparlante davanti, che però è molto molto fedele. Tutto l'altro è quasi tutto schermo, compreso tre manopole e vari tasti per funzioni particolari. Ah, ho capito, la grandezza di un fonatino, dai. Fonatino è 30 per 15 per 8, più o meno quella la misura. Capita, e come peso? È pesante? No, è leggerissimo, lo tieni sul palmo della mano. Diventa pesante quando lo metti nel zaino con la sua antenna, perché ovviamente l'antenna è lunga, e poi è pesante perché dentro c'è anche la batteria che ti ho detto, ma a piombo. Volendo ce ne potrei mettere una al litio, ma poi sai, non lo usi molto in maniera portatile e quindi ti crea questa cosa. Questo invece è della sua razza, però è il fratello più grande, che ha fatto tante cose, analizzato il spettro, registrazione della voce, lui registra anche la voce, tutta questa serie di apparecchi. E in più quello portatile, laterizio, ecco, chiamalo così, dà anche opera anche su frequenze altissime, quindi c'ha tutte le frequenze, anche in teoria, se non mi ricordo male, volendo, e sempre volendo, con l'antenna adatta, trasmette anche in onde medie, quindi anche al di sotto di 1,5, figurati. Caspita, è una bella radio veramente, molto molto completa nelle sue funzioni, evidentemente. È sicuramente una radio che costa un bel po'. Avanti, Robert. Ormai adesso la tecnologia ha tutto quello che vedevi in un apparecchio prima, 20 anni fa, in uno scatolone che pesava 20 kg. Adesso ti fa tutto un processore, come i TV LCD, ricordi i vecchi tubo cattudico, non parliamo di quelli a valvole, quelli già transistor, li aprivi dietro, c'era già tutto un pannello pieno di componenti. Adesso questi LCD non c'è niente, vedi solo il pannello ultrasottile, c'è il processore, il computer, che fa tutte le operazioni possibili e immaginabili, gestisce tutto. E così sono queste radio di nuova generazione, sono ultrasottili, non parliamo poi anche le autoradio di macchine adesso, che ti danno tutto il possibile e immaginabile, più interfacciabile con telefoni eccetera eccetera, e GPS, navigatori eccetera eccetera, li prendi in mano e dici, ma sto prendendo, pesano 100 grammi, 80 grammi di peso. Caspita, beh, certamente sì. Lo so, oggi la tecnica è avanzatissima, per cui hanno costruito delle apparecchiature che uno non, alle volte nemmeno si può immaginare cosa riescono a fare. Bene, bene, vai Gioca. È il mio, si può dire, rimane comunque un giocattolo in confronto a quelli proprio, diciamo, anche se è stato fabbricato nel 2020, sia questo che sto usando sia anche l'altro, allora è un pochino più recente addirittura, però ce ne sono certi che sono irraggiungibili, sono solo sogni per un radioamatore, perché hanno dei prezzi tali, ma tra l'altro non so neanche chi li possa vendere, se li vendono a privati o a qualcuno. Io ne ho qua un altro di apparecchio, che invece è tradizionale, ma tradizionale e professionale, da non confondere con quando uno dice che l'apparecchio radioamatoriale è professionale, che è il casco apparecchio, un apparecchio navale, eccetera, ma c'ha... 150 watt ininterrottamente, progettato per fare quel lavoro proprio, ed è un eccellente, l'ho fatto arrivare dall'Inghilterra quando ancora non c'era la Brexit, e anche quello è formidabile, ne sono contentissimo. Adesso mando in pensione appena possibile, 2000, che poveraccio, non lo sto più accendendo, veramente, è un bel ricordo, però oramai è troppo grande. Quando ce lo fai sentire qua su queste bande, 2000, già? Anche adesso, tu lo sai, io ho sempre, tutti gli apparati sono di pronto uso, se poi l'accendo, tanto c'è il microfono identico a questo. Se mi dai un minuto per accenderlo, di sintonizzare qua e ti chiamo. Ti aspetto, voglio, sono curioso, ho il microfono suo originale magari. Vai Giulio. Ok. Sì, certo. Ma anche il 2000, anche quello, evidentemente gli ha fatto lui la modifica per aprirlo, perché per quanto ne so io, il 2000 non era aperto per la 27. Riusciva solamente a ricevere un po' di canali, te lo dico perché io di 2000 ne avevo fatto arrivare uno per abbonare Maria Emanuele Ponzio Pilato e CTS 2000, sto parlando, e dunque in AM non era aperto. Allora successivamente ho chiesto come si faceva la modifica e mi hanno mandato loro uno schema elettrico, l'ho dato a Emanuele era radiotecnico e dunque ce l'ha fatto subito in brevissimo tempo, ce l'ha aperto definitivamente e lo usava anche lui in 27. Vai Robert. Ma l'ha venduto o è rimasto questo apparecchio? Diciamo che lui è deceduto, per cui poi la figlia mi aveva detto che era venuto un parente da fuori e si è portato via tutto. Forse qualche parente radiomotore, non lo so, e si è portato via tutto. Il TS 2000, soprattutto le ultime edizioni, quello nero, è una grandissima radio. È stato il primo apparecchio digitale dell'epoca che ha dato come riferimento, era molto avveniristico rispetto a tutti gli altri. Nessuno c'era arrivato nel 2000, infatti c'era nel 2000 proprio perché nel 2000 ancora non esistevano le digitali, avevano proprio gli albori. Vediamo un po' Gianfranco se è pronto a farcelo sentire. Sì, anche qua sto facendo ovviamente con potenza molto bassa, quindi sono 4 hanno 3 watt. Il microfono è identico a quello di prima, non so come sia la voce. Comunque questo TS2000, il vecchio glorioso TS2000, quello dovrebbe essere tribanda, se come terza banda consideriamo i 50 MHz, quindi il tribanda, poi c'è il quadribanda che c'è il 1200, è quasi totalmente aperto, diciamo, perché grazie al ricevitore supplementare che ha nella tubo banda, come la chiamano, può andare dappertutto. No, ti ascolto bene, diciamo non è da combattimento la modulazione, però è molto naturale, pulita, sento il respiro, cioè proprio una, diciamo, alta fedeltà, chiamandolo volgarmente bene. No, a me la radio cosiddetta bombardata non mi piacciono, no. Anche perché con certi apparati non funzionano nemmeno. Ce l'hai un 60 per sentire come va? No, un 60 non ce l'ho. I miei sono tutti, ne ho 3 e sono tutti identici di microfoni, da tavolo. Questo è un da tavolo, c'è un precompressore, volendo si può mettere, qua forse ce l'ha, gli altri oramai non li stanno più mettendo, perché in AM non si usa. Vediamo un po', provo a metterlo e non so se neanche se funzioni qua. Ecco, adesso c'è il compressore, non so come cosa sia successo, perché ripeto, in AM non si dovrebbe mai usare, perché è fatto solo per le bande laterali praticamente, anche perché i microfoni ce l'hanno già in dotazione. Il compressore lo tolgo, vediamo se cambia. Ecco, adesso lo tolgo. Cambia totalmente, risulta come che usi un amplificato e un non amplificato, molto più potente la radio, magari perdi qualcosina come qualità perché è meno fedele, si sente un po' di rumore di sottofondo nell'isolato, diciamo quello che c'è intorno, però è piacevole anche quella di modulazione. Qualcuno ne parlava male, diceva il TS2000, ma è tutto questione di saperli usare e di fare i giusti abbinamenti. A me piace in tutti e due i casi, è una buona modulazione. Questa è la versione grigia, scusa Giulio se parlo io, è la versione grigia del TS2000. Confermo. Sì, a grande radio comunque. Avanti a te giù. Ok, non so se mi hai ascoltato poc'anzi Gianfranco, stavo dicendo che io ne avevo fatto arrivare uno anni fa di TS2000, quando era praticamente uscito da pochissimo tempo come apparecchio, ed era per Emanuele, anzi Emanuele Ponzio Pilato, buon'anima, che ormai è deceduto già da 10-11 anni, forse 12 anche, e non era aperto per la 27. Allora avevo chiamato la IL elettronica, perché l'avevo comprato lì, l'avevo comprato, e mi hanno mandato lo schemino per aprirlo per la M. Dunque, siccome il Ponzio Pilato era radiotecnico di professione, gliel'ho dato lo schemino e se l'ha aperto lui tranquillamente, riusciva a dire una meraviglia, soprattutto per la voce che aveva Emanuele, era ideale, aveva veramente una bellissima modulazione. Avanti Giafra, anche quando era così, era chiuso? O tu l'hai fatto espandere tu, o l'hai espanso tu? Sì Giulio, l'ho espanso io perché era una cosa così banale, si trattava di foglio del solito diodo. Niente, questo poi dentro, insomma, già ce n'è spazio, era ancora visibile, poi ero anche più giovane per fare quei lavori, quindi la vista era eccellente. Il saldatore in mano era come un bisturi, quindi problemi non ne ho avuto lì. L'ho aperto, ma figurati che, essendo anche un apparato che ha un fitta a 12 kHz, a 12 Hz credo sia, se non ricordo male, sull'audio, l'ho potuto interfacciare col computer e anche col TS2000, che allora non c'erano neanche i ricevitori, quando facevano le prove ascoltavo la radio broadcasting in digitale, le prime radio, proprio bisognava stare attenti agli orari per ascoltarli. Adesso mi entra in funzione la ventola, perché entra la ventola in funzione a prescindere dalla potenza, capito? Dopo un po' l'apparato è freddo, perché l'ho acceso quando me lo avete detto, però entra la ventola e sicuramente si sente. Tra l'altro si era anche guastato, ma guastato non nel senso rotto, perché c'era il difetto di tutti i TS2000, infatti bisogna stare attenti quando inizia a fare scariche, perché avevamo messo delle medie frequenze di scarsa qualità e quelle partivano, quindi si sentivano scariche a naso, eccetera. L'ho dovuto mandare su in continente, le erano sostituite e ci hanno messo quelle, non so, dalla murata o di che cosa, comunque delle medie frequenze di alta qualità e tutto un altro pianeta. È tornato come nuovo, infatti mi hanno detto guardi l'apparecchio era già abbastanza trattato bene, adesso che c'ha anche le medie frequenze campa 200 anni, speriamo, comunque lo darò perché ripeto è troppo grande oramai, non può competere poverino con gli altri, ecco, nonostante non sia proprio vecchio però è così, si sente bene la radio nonostante io non musicasse, si sente benissimo, però è quella la ragione, capito, la tecnologia va avanti. Ok, ho capito, ho già fatto. Ma l'altro giorno mi è arrivato un messaggio su WhatsApp che c'era uno che stava vendendo un'antenna ed era esattamente, posso dire il nome perché probabilmente era poco, questo messaggio era a scopo anche pubblicitario, perché magari per far capire a qualcuno se era interessato per comprarla. era di Elio, come si chiama? Elio Solina, sa? Facciamo anche il nome, perché mi ha mandato un messaggio, evidentemente si poteva anche divulgare in frequenza la notizia. Io non l'ho mai fatto, non ci ho mai pensato, adesso lo sto dicendo, in modo se ci fosse qualcuno interessato, l'antenna ce l'ha ancora, se vuole se la può comprare. Era di Elio, è di Elio Solinas. Avanti Roberto. Sì, l'ho visto anche io, lo stavo vendendo, era diamantone, stiamo parlando. A Elio gli avevo dato anni fa una parabola grossa, un 180 della IRT, gli avevo dato per fare dei collegamenti satellite. Una domanda, il tuo è il quadribanda, è Gianfra il coso, il tuo TS2000? No, è il tribanda, cioè se alludi la scheda 1200, non ce l'ha, capito? Era come optional, credo, su questo che si metteva dentro, ma siccome non mi interessava, perché sui 1200 non c'è traffico praticamente, quindi ho preferito questo, e devo dire che è un apparato eccellente, ma lo stanno tutti rivalutando, perché ci sono accorti che hanno parlato senza vedere poi la sostanza dell'apparecchio, c'è molta gente che parla però poi non ha neanche visto in funzione l'apparecchio. Questo mi sembra, se non sbaglio, è stato il primo con DSP, cioè DSP di serie, il TS2000, non è così? Assolutamente sì. E in ricezione com'è confrontato, per dire, tu cosa hai avuto prima di quello, diciamo degli analogici, il topo che avevi prima del TS2000? Guarda, prima che ho adesso sto andando a memoria, il 757 della Yaesu, in 27 realmente non si poteva usare, perché sembrava multimode 2, cioè una spazzatura, talmente spazzatura che proprio ho cavato rubando, come si dice in sassese, e chi è che se lo vuole portare via? Cioè liberatemi, perché ero disperato, ovvero prima praticamente era inutilizzabile, perché tu lo sai, prima della lateroce c'erano tante stazioni potenti e non faceva, non era un apparecchio da tenere. No, parlo apparecchi un po' più evoluti, parliamo per dire un 850, 950, 940, come ricevitore, è differente, ce l'hai avuto tu 950, 850? Eccomi! Sì, registrato. Guarda, che ho avuto l'altro Kenwood che ho venduto qualche anno fa, che era molto più evoluto di questo, non mi ricordo la sigla. Ancora prima, sempre un altro Kenwood, sempre più nuovo comunque del TS2000, e quello lo stesso andava bene, però non mi viene, era quello che aveva i tasti grandi, pulsanti grandi, però l'apparecchio era sempre tipo TS2000, però più compatto. Poi ho già avuto, guarda, ne ho avuto talmente tanti che mi viene difficile, tieni presente che di norma ho avuto sempre Kenwood come apparato. Ok, avanti Antonio. Kappa, eccomi qua, sono rientrato, Kappa, Kenwood, bella radio, la verità. Allora signori, io vi devo lasciare, mi dispiace sempre per Antonio, magari ci sentiamo dopo, adesso vado a mangiarmi qualcosa, se poi c'è qualcuno, magari ci sentiamo. Ciao Antonio, ciao Gianfranco, ciao Giulio, è stato un piacere fare una chiacchierata con voi. Ciao, cuore da parte mia. Sì, scusa Giulio se riprendo, ma mi avevo proprio dimenticato, anche a me mi hanno chiamato. Cavolo, di norma questo sto già mangiando, mentre se no già è un quarto fra poco. Ciao Antonio, tu hai mangiato. Ciao lapsus di nome Roberto. Riprendi Giulio, dai, ci sentiamo alle prossime. Buona cena a tutti. Ok, ciao Roberto, grazie per la chiacchierata. Ciao Gianfranco, grazie anche a te per la chiacchierata. Ci sentiamo alle prossime. Avanti Antonio. Capa, salutoni Roberto, salutoni anche a te Gianfranco. Ce la risentiamo. Sento qualcuno basso, sento. Preparazione a tu, preparazione. Ci sono da molto, ci sono questi qua sotto. intelligente di preparazione, per cui non abbiamo fatto nessuna conversazione con loro. Capa, quando va giù l'antenna a mano, già l'intendia sempre, però qua quando c'ho l'antenna come si deve è tutto un altro pianeta. L'antenna è fondamentale, come dicono gli americani, 10 lire per la radio e 100 lire per l'antenna, per cui quando l'antenna è performante hai risolto mezza stazione, anzi più di mezza stazione, hai dato importanza maggiore sicuramente alla radio, non ci sono dubbi. È così, Antu. Capa, prima era un casino uscire, tutto coperto, scorroccio di coboro, mamma mia. Non me l'hanno mai voluta mettere su, se no l'aveva buttata sopra, me ne ha fottito l'antenna. Me l'avrei messa su, sul tetto, perché è la cosa migliore, secondo me. L'ideale sarebbe così, metterla sul tetto, in modo da non avere nessun ostacolo, né a livello di orizzontale né a livello verticale, e per cui l'ideale sarebbe quello. Purtroppo alle volte non è fattibile, allora uno si accontenta e la usa così come la stai usando tu. Io che ho quella possibilità di poterla mettere più in alto dove voglio, pensa, non l'ho fatta, ce l'ho nel terrazzino a livello di altezza d'uomo, quando mi serve staccare il PL allungo le mani e stacco il PL, per dire, no? Però volendo potrei mettere dall'altra parte, dove c'era appunto prima la mantova turbo, sarebbe stata molto ma molto più in alto, almeno 5-6 metri più in alto di dove è adesso, e probabilmente renderebbe anche di più, anzi senza probabilmente, perché questa che ho io ha bisogno che ci siano 5 metri fra l'antenna e il piano riflettente di distanza, almeno 5 metri, se pure 6 anche meglio, per cui va bene così. Sì, a tu. Capa, io questa l'ho sollevata almeno, sarà 4-5 metri da terra, no, forse 4 metri da, questo è esagerare. Lo so, però già va bene, dai, anche se non la puoi mettere più in alto, però già va bene, interessante è riuscire a sentirci, va benissimo così, Arturo, non c'è problema, tanto cosa te ne fai a fare certi lavori così in altezza eccetera, non serve a niente, guarda, non serve a niente per vari motivi, primo perché siamo io pochissime persone, secondo intanto il collegamento riesce a fare ugualmente, per cui che motivo c'è di metterla più in alto, non ce ne frega niente, ci accontentiamo, vai. Capa, no, ma già mi basta così a me, già mi basta, a voglia. Però prima era più bassa, poi quando ho messa più in alto ha cambiato le prestazioni pure. Io sento a tutti, mi sento. Molte volte certi non sentono segnali che io li sento. Certo che sì, dipende anche dalla posizione, dall'ubicazione dove uno abita, e quello è importante, fondamentale. Oltre che alla posizione, è ovvio che è fondamentale. Poi nella zona dove sei tu è aperto. Se tu avessi avuto quella possibilità di metterla proprio direttamente sul tetto, saresti veramente a livello eccezionale. Però accontentati lo stesso, perché intanto tutti ti sentiamo, per cui non c'è problema. Quando devi fare chiamata fuori ti sentono ugualmente, per cui che problemi ci sono? Per questo tutto non si può avere nella vita, non si può ottenere tutto quello che noi desideriamo. Vai Antu. Capo, mi sa che sta entrando qualcuno, forse mi sembra tu Claudio. No, io ce l'ho sul tetto. Non è che non ce l'ho sul tetto, chi l'ha detto che non ce l'ho sul tetto? Avanti! Ho detto che stai arrivando bene, che cosa vuoi? Ciao, buonasera! No, capa! No, stavo parlando che prima era un casino sentire certi segnali, adesso sono contento, sono. Cavolo, lo viaggia sempre, mamma mia. Break. Registrato il break. Va bene, ecco, sono entrato a salutarvi che purtroppo è arrivata gente all'improvviso e quindi ho dovuto attaccare. Ciao Anto, poi mi dici se mi stai ricevendo bene, che ho riattivato il K. Avanti break. Ehi, dai, buonasera a tutti, dai. Un controllo di radio me lo potete dare per cortesia? Buonissimo alla radio. Ciao Claudio, ci sentiamo, dai. Io chiudo, vado a cenare, sono le 8:20 circa, e per cui devo scendere a cenare. Riprendi pure Gianni, ti lascio con Antonio, vai. Capa, vai. Sì, sono 9:40 e Radio 5. Ciao Gianni, buonasera, Cupo, ti sento. Salutami a Franco comunque. Solito discorso tuo con quel tipo di radio, arrivi in Cupo, però la radio è bella. Avanti, ciao Giulio, buonasera. Ciao qua, ci sentiamo, dai, vado a cenare, ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao. Gianni? Gianni è entrato. E è uscito. Ok, e allora Antonio? No, io sto usando il 430 con l'MC60, come va? Benissimo, io sono good rapen di Ghiccio, 440 con l'MC60 lo stesso. Va bene, 9:10 con picchi a 9 quasi e 20, e radio super 5. California, io esci in appizio. Lo gioco qui sei due chili. Forse arrivi in hobby, E anche qua Franco arriva forte, arriva leggermente più alto di Gianni, anche non capisco perché. Qui si antenna di plastica, ragazzi. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ehi, ti aiuto a salutarmi a Franco, ciao. Capo, è però chi si antenna di plastica rende in voce. Arriva forte Franco qua, va forte. Gianni, volevi un controllo? Sei cupo. Buona la radio, ma è cupa, non è la tua solita modulazione. Questo qui è un MC60. Cosa? È un MC60 questo. Io lo so, sì, non ti preoccupare, il segnale non è il tuo, sei da Franco, California. Infatti ti ho detto, continuo sempre del parere che l'MC60 non si addice a te. Sì, vabbè, va. Sono andato per salutare, mi state demoralizzando adesso. Ci sentiamo, dai ragazzi, buonasera. Già, io parlo come mangio, lo sai come la penso sulla radio. Prove ne hai fatto tante tu con quel tipo di radio e rimane sempre il fatto che rimani cupo. Cupo impastato di modulazione. Ci vuole un po' più di acuti per far andare quel tipo di microfono. Comunque salutami a Franco, già lo so che sei lì. Il segnale è quello di Franco, non è il tuo. Avanti Anto. Kappa è una bestia, ci vuole da inchiere. Kappa. Oh, se più marchio Sigma è me. Chi s'antenna i bracci, cagli di tu. Però funzionava, cavolo. Ma Franco, con quell'antenna arriva un bel forte. Arriva un bel forte qua, 9:30. Gianni da casa sua è 25. Capito? Tu sei 9:15 con picchia 9:20. Arriva un bel forte. Un bel. No, ma la verità è ottima, cioè leggera da piazzare ed è un'ottima antenna. Fino adesso sempre lì. Vuol dire che è buona. Kappa. Ma io non penso che non esco male con l'MC60. La verità mi sono sentito così variamente, però va bene. Ciao Claudio, buonasera anche Antonio. Ciao Franco, c'è tutta un'altra dubbia. Perché sia io, Franco, tu, Tino, Natalino, col 60 hanno un po' più di acuti. Gianni c'è una modulazione molto bella, con i microfoni Turner, MBP5 e tutti quelli che usa lui. Col 60 invece gliela fa un po' cupa, capito? Un po' cupa, gliela smorza molto, evidentemente non si addice tutto qua, però già va bene lo stesso. Avanti Fra. Cra, dai, il tuo rapporto 5-9 più 20 stai arrivando qua. qua, Non so come mi ascolti in quella zona, sto usando il K, il C80. Sì, io lo so, sto usando il C80, infatti ho detto a Gianni, il segnale è il tuo, sei 9.25 e tu picchi a 9.30, fra. E K, e sto uscendo con pilotati 30 watt, dai. Sei un bel forte, arrivi, dove sono io evidentemente c'è qualche varco. La radio com'è la mia, buona? Una bomba, cla. Ehi, ehi, è arrivata venerdì questa radio. Venerdì è arrivata. L'ho messa in funzione, venerdì scorso, l'ho messa in funzione ieri. Non arrivava, è stata a te, difendi, però vai, bisogna usare anche questa. C'è una persona che vuole un controllo, va avanti. Un controllo da potenza, così hai detto. Ah, ma hai detto quanto ho mangiato di modulazione? Chi è? Con chi parlo? È tutto impazzato, visto, tutto, non ho capito niente di cosa ha detto. Va bene signori, io vado a pappare, dai, ciao Gianni, ciao Fra, salutami a Lucia, ci sentiamo, ciao a te. Ok, saluta Sara anche tu e ci ascoltiamo le prossime, dai, sono entrato solo per salutarvi, ciao ciao. K, saluto Unica, ce la risentiamo, K. Alle prossime, Franco ci sei? E questa è la, dai, ciao Cla. Buon carica, buon tutto e ce la riascolta, fatti sentire, scappa gaba, saluta in casa, ciao. Ehi, Afra, già ti telefono, vai, così vengo a prenderti e ti porto qua, ti faccio vedere come siamo organizzati. Già, ci sentiamo al telefono, ti dico al telefono, adesso, ok. E ciao a tutti, buon fine serata e alle prossime, ciao ciao. Ciao Cla, ciao ciao. A tu, dammi un rapporto di segnale da te, come sto arrivando. 9:40 e radio 5. Pulita la radio? Sì, ma sento questo... ma c'è la ventola accesa. La? La ventola accesa, c'è. No, la televisione, a tu. Oh, tengo questo... Fra, si sente un rumore sotto. Quasi che sia rumore di ventola sia. Non lo so, sente, si porta presso un rumore adesso, non poco fa no. Va bene, dai, vi saluto, ciao ciao a tutti, alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao Cla. Guarda adesso Cla, 1, 2, 3. Prova Fra, metti la portante. No, adesso non si sente niente. Gaba gaba. Adesso va benissimo alla grande. Capa, adesso già va bene già. Oh Fra, qualche MC60 in più c'hai? Cosa Cla? Se hai qualche MC60 in più. Devo chiedere a quell'amico mio di Tempio, che mi sa che ne aveva uno. Domani lo chiamo e ti faccio sapere. Ehi, fammi sapere che mi serve per la radio in VHF, che non mi piace col microfono normale. Dai, ci sentiamo, ciao. Ciao Cla, ciao ciao. A te riprendo subito. Ehi, vabbè, va, fai fai. Allora, come sta andando? Mi muove la memo, cash! Questi giorni ho visto il raggero, se ti andassi. Eia. Perché abbiamo accompagnato l'Africa di Marina. Cappa, tu ti lo scatamandro umano in Kiwi. Ma tu mi sai? A che non lo gioco. E poi questo mandrone. Ah, ho guidato due bici. Ho preso una margherita, una con pomodorini, un bar, cioè per i tavolini fuori. Con i pomodorini, prima la fai, la pomodorini nei basilico. Due birre, 20 euro, 8 euro. Antonio Carriola. Che ti si zecca la Carriola? Occhio al perizoma. Tocca pantaloncini corti. Proprio Patagliolo. Capa, imbarrati, ma comunque il prezzo è quello, Millo. Il prezzo su per giù è quello lì, me. Di chi c'ha roba. Sì, va bene. Come le va a contare un telefono? Attimo, anticipo sempre, anticipo. Faccio quello, ma senza di là. Vabbè, oddio, senza di là, no. dopo c'è fuori chi va più chi si giuro. E domani già vedi, vado da. Devo riparare un Samsung Galaxy A10. Chi so, vi vorrei di là. Con lì minimo le domande un po' per aggiustarlo. Luca, domani ti pagano. E in tutto 80 euro attorno. 50 di display, 55 di display e 25 manodopera. Fai bene, fai. E Natale. Domani ti pagano. In anticipo.